Avventuriero, hai sentito questo rumore? Vuoi indagare o restare a protezione dell'accampamento? Falso allarme. Nessun pericolo. Almeno per ora. È il momento di dare il cambio al tuo compagno. Chi sarà di guardia per il terzo turno?